25.000 studenti in 33 paesi, questi sono i numeri di Erasmus. Attualmente, un paio di settimane fa abbiamo dato voce a chi ha lanciato la protesta, barra la proposta via Facebook di dare una mano agli studenti Erasmus che sono all'estero per studio e non hanno la possibilità, non hanno i soldi, non hanno neanche il tempo di tornare in Italia per il voto. Hanno chiesto: dateci un modo, cambiate le regole, fate qualcosa, pensate anche a noi. Invece è arrivato un no secco dal ministro dell'interno, ha detto non ci sono i tempi tecnici per cambiare le cose. Una discussione, un ragionamento che speriamo vada avanti per le elezioni successive, però intanto è arrivata una proposta concreta che riguarda queste elezioni. La proposta arriva dalla Fondazione Garas Erasmus, che abbiamo conosciuto tempo fa qui all'Altra Europa, una piattaforma che ha come mission, come obiettivo, quella di riunire tutti gli studenti d'Erasmus d'Europa per dare iniziative di start-up, di rete, per fare intelligenza collettiva, e arriva da loro un contributo che è in parte simbolico, ma è anche in parte un contributo concreto. Diamo il benvenuto a Marco Mazzini, cofondatore di Garas Erasmus. Ciao Marco. Ciao Federico, ciao a tutti. GarasErasmus.org, questo è il sito, oppure su Facebook, nelle vostre pagine attivissime, o anche l'applicazione che si può scaricare per smartphone. Queste le coordinate per trovarvi, però parlaci subito di questa importante proposta. Ma la nostra proposta vuole essere una proposta molto pratica. Noi da Ex Erasmus abbiamo pensato un po' più grandi, siamo più grandi, un pochino più già introdotti, di fare l'unica cosa possibile in questo momento, e quindi mettere mano al portafoglio. Abbiamo coinvolto alcuni sponsor che anche colgo l'occasione qua di ringraziare, sono KPMG e lo Studio Potenza di Milano, che ci hanno dato dei fondi per finanziare 100 euro a studente, il rientro per ora soltanto di 50 studenti. È un rimborso così che noi chiediamo in cambio di un giustificativo che ci stanno mandando già da diversi paesi per dimostrare che sono Erasmus all'estero e devono tornare in Italia a votare. Il vostro di fatto è un doppio appello, perché l'obiettivo, l'utopia sarebbe quella di finanziare il rientro di 1000 studenti, quindi vuol dire che servirebbero 100.000 euro, quindi servirebbero sponsor per allargare un po' la possibilità, e poi segnalare agli studenti che c'è questa possibilità, ci si può iscrivere, si può fare richiesta di contributo. In che modo? Ma allora, io ti ringrazio infatti di averci dato lo spazio anche qua, perché quale posto migliore se non Radio 24 per lanciare questo doppio appello? Da un lato, innanzitutto agli sponsor, aziende che vogliono, come dire, mettere il loro contributo e la loro visibilità su un'operazione che è sicuramente pro bono, ma è anche di civiltà giuridica. Quindi chiunque abbia due soldini da darci per unirli nel fondo, ci contatti a info@garagerasmus.org, oppure vada sul nostro sito e poi li manderemo tutte le informazioni, le condizioni. C'è dietro uno studio notarile che procederà a un'estrazione la settimana prossima, quindi tutto nell'assoluta ovviamente trasparenza e chiarezza. E dall'altro, a tutti gli amici, familiari che conoscessero studenti Erasmus in questo momento fuori, che vogliono tornare a votare, c'è questa ulteriore opportunità. Si sta parlando molto ora degli sconti che le varie compagnie aeree e ferroviarie stanno facendo, quindi questo sconto si aggiunge, questo è un rimborso, quindi tra gli sconti e questo rimborso uno studente può tornare praticamente gratis. Chiunque conosca un Erasmus fuori gli faccia sapere che può far domanda fino al 10 febbraio. C'è anche l'Erasmus Student Network, che è l'associazione, per chi non lo sapesse, che coinvolge tutti gli Erasmus, sì. Sono più di 18.000 volontari in tutta Europa, che si è attivata, manderà un comunicato stampa e sta informando tutte le università. Comunque, lo sapete, fatevi avanti, sia sponsor sia studenti, c'è questa opportunità, vediamo se riusciamo ad arrivare almeno a 1000 studenti da qui.